Natalino, ci sei? Mi dica. Ciao Natalino. E allora, come va? Come te li bovari vici? Come ti vuoi andare giù? Insomma, così. Oggi c'è un po' più di fresco, comunque. Sono il vero vento che faccio di uso, però ma come fresco. Infatti io ho portato il cane e ho visto che c'era fresco e vento, soprattutto. Infatti, essendoci le finestre aperte qua, stanotte alle 4 mi sono alzato per chiudere, ma che viene corrente, perché con quel vento tirava corrente, perché tutto aperto, le finestre aperte, le porte aperte, dunque c'era corrente, allora l'ho chiuso. Infatti, Cassa dice che hanno chiuso il CUP, che non prenotano più esami, ma cosa, hanno licenziato tutti i riguagli, un macello hanno fatto. Speriamo che gli esami me li facciano quei due che devo fare. Ma se sono già per mesi io che sto aspettando, prima me l'avevano assegnato a Oristano, poi mi hanno chiamato che di non andarci perché era tutto chiuso. Allora ho rifatto di nuovo la richiesta e me l'hanno assegnato al nuovo. E mi dovrebbero chiamare a settembre, mi dovrebbero chiamare, sempre che mi chiamiano. Però tento di nuovo e voglio vedere se mi lo assegnano per Sassari. Se non mi tocca andare a Nuvolo a settembre. Io macello, io li devo fare a Platamona, due eco Doppler sono. E a settembre? Per le gambe. E dovrebbe essere uno il 28 agosto e l'altro il 7 settembre. Però da poi devo andare pure a Favida Curughirugo a programmare questa operazione che mi devi ne va. Guarda, il macello è diventato, con questo fatto del coronavirus, ha scombinato tutto, gli hanno fatto un poco di danno. Erano già lenti prima nella sanità, poi ci si è aggiunto anche il coronavirus e dunque ha passato tutto, tutti gli appuntamenti, tutte le cose. Incredibile. E io la devo fare per forza, anche perché poi con la visita, mi devono dare la programmazione del proseguo della terapia, per cui se non posso visto, ma con la terapia mi muore la segnata. È un macello giù. Speriamo che non li annullino, perché il diabetologo li vuole vedere questi esami qua della circolazione, no? E so due eco Doppler so. Più da voi devo andare da chirurgo per vedere, perché in urgenza non ne vogliono fare di queste operazioni, capito? Per programmare l'intervento. Lo so, ma se devo andare a Parlamento, io lo volevo fare, la visita che devo fare, e non è possibile perché era tutto chiuso. E dunque a Sassari solo l'ospedale lo posso fare io con la visita che devo fare, devo fare a DAC, però attacco è col contrasto, se no sarei andato in un ambulatorio privato, l'avrei fatta, ma in ambulatorio privato col contrasto non te la fanno, dunque sono costretto ad aspettare per quando non mi chiamano loro. Cosa vuoi ti dica? Adesso vediamo, anche perché a fine di agosto, un po' prima, là, una decina di giorni prima della fine di agosto, devo andare di nuovo perché mi assegneranno la terapia, il proseguo, insomma, là, un'altra serie di installazioni. E cosa vuoi che ti dica? Un macello. Aspetta un attimo giù che devo dare. Senti Marco. Ok. Stavo dicendo, Natalia, hai visto che il governo, la mia lavagogna, continua a farci pagare il canone annuale del baracchino. Se ne sono resi conto che sono dei bagliacci vergognosi, hanno pagato 48 anni, 49 anni praticamente quasi. là non si paga più, nemmeno cosa si deve fare. Adesso ti prendi la palicca e trasmetti. Ed è giusto così, perché dentro non si dà niente, non si dà un ripetitore, non si dà niente. La palicca è nostra, l'antenna è nostra, per cui non ne valeva la ragione perché si doveva pagare il canone. Ma era una misiglia, 12 euro all'anno. Sì, d'accordo, perfettamente d'accordo, non ti vale né più ricco né più povero. Però era un furto nel vero senso della parola. Una vagogna, grazie di governo, bombo. Ma in Italia siamo... è il bollo della macchina, non è una cosa... un furto, Mattesi. Quello non si dovrebbe pagare, eppure lui ne pagato. Sì, anche quello poi non ne parliamo. Questo è proprio una vergogna che si deve pagare per poter transitare con la macchina. Non basta a me, l'accise che paghiamo la benzina, repita, che per questo è una miseria, questo è un petrolio, la benzina questa è una miseria, e noi della base del Bagà, 30 voti tanto della base del Bagà, che vergogna, grazie di governo, lo avremmo. Per non parlare poi tutti quanti questi morti di fame che stanno venendo da fuori, ma te ne immaginate in che situazione si suppone andiamo? Allora si tornano a serrare situazioni, perché se continuano così il virus sale, altro che se sale. Ma cosa gli costa mettere le navi della Marina Militare in acque internazionali? Se cercano di passare basta sparargli addosso, molto ci vuole. Io avrei messo il militare col mitra, detto, poi se voi vi avvicinate nelle acque italiane vi sto subito mitragliando. Avrete visto che no, ma sicuramente sono i ladri che loro ci mangiano, questi bastardi, ci mangiano, questa gente ci mangia da questi morti di fame che stanno venendo qua, che hanno portato di tutto, malattie, prostituzione, delinquenza, di tutto. Alemane mi ha mandato un video, Graziano mi ha mandato un video, c'era uno di questi neri sopra un pullman, sopra fai casino. E poi a un certo momento col telefonino voleva chiamare anche la polizia, voleva chiamare, quando la polizia era a fianco a Edo Vesino, che poi l'hanno preso, l'hanno ammanettato, ce l'hanno portato via. Per dirti, fanno quello che vogliono questi bastardi, e il governo non se ne rende conto, o meglio se ne rende conto ma vuole che succeda così, perché loro ci mangiano. Stavo buttando la mascherina a mia moglie che se n'è dimenticata. Quella bisogna portarla, anche se c'è tantissima gente che non la sta più portando, anche quelli sono incoscienti. Ma io la butto, quando io esco la porto, perché è giusto che sia così. Innanzitutto bambi e matessi, e soprattutto per rispetto degli altri. Invece io sabato mattina sono andato a prendere la pensione e ho fatto da falegnameria sino alle poste a piedi, no? Faccio sempre così, perché tanto parcheggiano le truppe dalla parte di su. E allora ho notato tutto il tragitto che ho fatto, da falegnameria alle poste centrali del viabile della Trastase, non veniva uno con la mascherina. Tutti quanti. Poi alla fine lì in Piazza Castello ho incontrato a Marino, Non ce n'era uno con la mascherina, tutti senza mascherina. Sembravo io lo scemo di turno. Solo io via la mascherina, tutti gli altri hanno venuto via, né femmine né uomini, non è possibile. E dopo si lamentano quando vengono contagiati. E infatti, questa gente anzi addirittura se lo merita di essere contagiata, perché la gente che non rispetta le regole, perché quella è una regola fondamentale, il fatto di tenere la mascherina, ma non solamente per la persona stessa, ma soprattutto per rispetto nei confronti degli altri. Perché tu non puoi mettere a rischio l'incolumità delle persone solo perché tu fai il paccone o fai l'omacco o credi di essere forte. Tu sei un verme quando fai così e basta. E così è, infatti, cosa non ripetano nulla. Io anche per portare il cane me la metto la mascherina, perché sono consapevole del rischio che stiamo correndo. Tu c'è sempre la fila nel tabacchino, che adesso l'hanno fatto nella fila nostra, no? E chi vive sempre a vita? beh certo, la macchina bisogna portarla per cercare di debellare definitivamente questo virus, perché è una cosa veramente seria. Noi abbiamo fortuna, 18 milioni di contagi in tutto il mondo e quasi 700 mila morti, ma non è possibile, non è possibile, purtroppo è così. Ah, adesso il tabacchino che c'era lì di fronte a te l'hanno messo nella fila dove sei tu. E come mai? Il locale dove hanno avuto? Perché quello che c'era prima ha venduto a questo di qua, questo è di Furi pure, di Torralba, non è di Noghi né manco. Se l'ha fatto nel locale dove c'era mio compare, quello che faceva il parchemi. Lì l'ha messo il tabacchino e anche la sala giochi ha fatto. Sono due locali praticamente. Ho capito, sì. E allora ha migliorato rispetto a prima, perché prima era un buchetto quel tabacchino. Vabbè, era una vita, c'era tantissimi anni, ma tanti, è vero. Io me lo ricordo da ragazzo, da ragazzino praticamente, il tabacchino c'era già lì. E si è spostato di fronte praticamente. E vabbè, meglio così, là. Vuol dire è meglio sicuramente. Riprende. Ha migliorato di tanto, ma cosa non facciamo ancora di nada di leva, che si viveva prima, e chi invece sono guadagnando a nastro, soffrendo un mezzo in caccio. Certo, adesso così, se c'è anche la sala giochi, già non credo che guadagna, già non credo. Sai cos'è, il discorso che lì è stato penalizzato con gli anni, perché il parcheggio non ce n'era, la gente non si fermava più ormai, la gente con la strada lì era una strada poco consona all'attività, perché non c'era un parcheggio, la gente se non entra dentro un locale con la macchina non è contento, ecco qual è il discorso stata lì. A questo punto bisogna anche pensare a quello, tu mi avrai detto, ma oggi è la qualsiasi cosa, sì, ma vai la sala giochi anche, la gente va anche per quello. Non è tanto la sala giochi, è il tabacchino proprio che è in cassa, li fanno entrare a uno con la mascherina, capito? C'ha tre commesse questo qui, a baita si incascendi. Sicuramente sì, è meglio così, dai, meglio così, non credo, d'altronde. Questo, sentire certe cose fa piacere, perché vuol dire che l'attività lavorativa va avanti, certamente. Purtroppo Sassari è anche scarso di parcheggi e andrà buona la macchina, sotto al macado, io ci sono andato sotto il mercato qualche volta, ma giuito più completamente libero, pochissime macchine, ma poche veramente, una spesa praticamente che la gente non riesce a sfruttare, perché quel parcheggio che c'è sotto il mercato sarebbe molto ma molto comodo, sarebbe. E invece la gente non per parcheggia, sono poche le persone che scendono lì, magari se uno non è mancato capace che va a parcheggiare, che so io, o in via Lomberto oppure in via Sorso, però sotto al parcheggio dello mancato mi barano in poche basoli, pochissime, perché io ci sono andato un po' di volte proprio per curiosità, esci a vedere quante macchine ci sono, tu andi in Chivi e si possono contare quasi sulle due mani della persona, non andare così. E perché non abbiamo la mentalità, capito, l'hai, è quello, non ci vogliono entrare nei parcheggi così coperti, che vuoi che ti dica, si contentano di fare 3.000 giri per trovare un parcheggio in strada. Probabilmente anche perché la gente forse ha anche paura dei furti, delle macchine eccetera, dai, a chi può entrare se sia, entra un delinquente, ti apre la macchina, ti sfascia qualche cosa, anche se c'è sempre il controllore, lì all'ingresso. Pensa che alle volte ha fatto servizio anche mio fratello, ha fatto servizio in quel parcheggio lì, che mio fratello lavora in quello di Via d'Italia, no? Lavora, quello di fronte all'ospedale civile. quel parcheggio lì lavora. Perché anche se adesso in questo periodo anche lui è malattia, perché deve subire, al mese entrante deve subire una operazione alla spalla, perché è malattia in questo periodo. E vabbè, comunque, siamo esami. E infatti, oh, a me mi hanno acciappato il diabete, direi che vi ha detto, no, mamma mia. Non posso mangiare nulla, mi hanno vietato per questa pancreatite di mangiare latte, no, nessun formaggio, tutti i latticini, e manco un caffè latte mi posso fare mangiare una colazione. E devo mangiare i sudeguri, i vetti biscottati e boh, poi cosa mi devo fare la lezione, quindi devo mangiare fai frutti. Sì, lo so, problemi sono, Natali, sono problemi. Perché sei costretto a mantenere certe regole e giustamente bisogna farlo se vuoi stare bene, se no è ancora peggio. Allora ti batti la niga, perché se rimani a regime così nel mangiare eccetera ti fa anche dimagrire. Però il problema è che sarebbe bello fare anche la camminata, solo che tu non puoi nemmeno camminare, ma che vai questo problema alla gamba. E dunque c'è anche quello, se no sarebbe salutare, fare una camminata tutti i giorni, no a correre, non c'è bisogno di correre, ma di camminare per bruciare calorie, proprio per essere agevolato anche il problema della glicemia. Ehi, già lo so, ma il dolore non mi sta più venendo, quel dolore alla gamba. Ne ho già sceso molto, pesavo 72, ne peso 67 e 500. E in più mi farà dimagrire ulteriormente, perché giustamente mangi come un uccello, devi mangiare. Non puoi mangiare come ti mangiavi prima. Se mangi la minestra, rubani non lo puoi mangiare. Infatti non ne so più mai niente, bani. Capito? Io sono andato bene, anzi me la sono cavata alla grande, perché fino adesso non ne avevo, e questa pancreatite che ha scatenato tutto. Appunto, ed è una cosa che vuole curata, vuole curata, dunque deve tenere certe regole, perché può essere rischiosa se esageri, e purtroppo è così. Io ho sempre detto, Natali, è sempre meglio avere 20 anni, lì c'era stata la cosa più bella. Magari si potesse ritornare indietro ai 20 anni, invece man mano che si va avanti si diventa sempre più deboli e più vulnerabili. Purtroppo la vita delle persone è così. Ma comunque, finché la fini che siano esami alla manco, se no altro. Sta buonando da Vini Basenzia, d'altronde non abbiamo la Vini che fermo, no? Sono andato a aiutare mia moglie a salire nel carrello, certo, hai fatto bene, nelle scale è meglio aiutare sempre, d'altronde cosa vuoi fare? Bisogna sempre collaborare, no? Ci mancherebbe altro. Io già vado anche a fare la spesa, un po' io, un po' mia figlia, oppure ci dividiamo, magari io vado in un negozio, mia figlia va in un altro, perché ci sono due negozi i più vicini che ci sono, ce ne sono anche cinque in tutto l'anno dei punti, però i due negozi che ci sono più vicini, quello che magari ci serve in un negozio non ce l'ha l'altro, se no avremmo comprato tutto nel negozio nuovo della MD, invece c'è anche quello vicino alla chiesa, la CRAE, che è un negozio che è praticamente lì per lì, insomma è in agonia, in poche parole. Io penso che solo questo del tempo, prima o poi lo chiudo, perché da quando hanno fatto il MD, che è un locale grande, bello, proprio spazioso, e c'è tutto, cioè, se vuoi immaginare. Però ad esempio la pasta Barilla, che noi compriamo sempre la pasta Barilla, e con il negozio la Barilla non c'è, dico una cosa così a caso, però devo dire che compro bene lì la carne, lo compro bene tutto, hanno fuori di certe cosette che magari non, non ci sono, se c'è la pasta c'è lo stesso, non è che non ci sia, però di un'altra marca, magari pure più buona della Barilla, ma noi abbiamo sempre comprato Barilla e conteniamo se è possibile a comprare quella o Natale. Infatti si è abituato così. Infatti, poi c'è il pane che è molto buono, il pane è bello anche, a differenza di quel negozietto dove compravamo il pane, che lo compriamo sempre, però compriamo solamente lì adesso le spianate di patata, prima compravamo anche panini, ma questi panini vanno di anni schifo, perché allora abbiamo deciso niente più pane, perché tutti i giorni buttavamo tutti i panini, li buttavamo tutti i santissimi giorni. Ma cosa lo compriamo a fare noi, questi panini si da voi se lo rompiamo, ma l'abbiamo comprato per anni e allora stiamo comprando solo le spianate. E quando è necessario avere il pane tipo panini o che so io, focaccine, eccetera, lo compriamo in un altro negozio, perché alle volte ci sono delle cose che devi mangiare con dei panini, diciamo, per così dire. Ma non è così, no, se è bello, male, è bello, pulito, anche l'altro era pulito, non è che era sporco, ma era tutto quanto, ma si grudo, ma che dai, una vagogna. E anche era tutto imbuttito dal lievito di birra, da poi cattare in domani è tutto che era valla. Tutto mazzoso diventami, perché mettono molto lievito di birra. Ed è quello che lo fa se ne passa di rivitazioni. È un macello quando è così il pane. Infatti, ma anche vedendolo di figura, bruttissimo di figura, anche la forma stessa del panino, tutta tanta disformata, non ho mai capito, un panettiere non sa fare ancora bene il pane come si deve, e almeno fammelo vedere presentabile, invece tu la Baidia, ma che cosa è questa cosa? Dico, Badini, so, ma ti non la mondetta. Infatti non abbiamo più, proprio per non dire che non le compravamo più, no, perché è un negozio che ce lo lasciava tutti i giorni, ce lo lasciava da parte e andavamo solo a ritirarlo direttamente, ma cioè, proprio per così, per il problema di non dirgli non ne voglio più, che fa schifo, poi piano piano abbiamo già un bando di sistema, prendi spianate e lascia passare i panini e così via. E compriamo solo le spianate che durano tutta la settimana, durano, eccetera, eccetera. Mentre invece i panini non ne siamo più compare niente. E non ne compariamo più. O quando abbiamo bisogno di panini ne compariamo un negozio nuovo. Perché alle volte ci sono cose da mangiare col sugo, ad esempio, no? Che ti puoi mettere a mangiare il pane, eccetera, ci vuole. E le spianate non è che vanno molto bene, ci vuole o la focaccina oppure panini o una tanta. E infatti, caro Fazia Bonu, che me l'aveva fatto assaggiare Franco andava sempre da Gesaraccio a pigliare, vedo croccante di ciobani, ma buono a vero era, solo che sempre da niente, dimmi tu. E questo è il problema. Infatti per conto mio, oggi come oggi, i panini migliori che ci sono proprio quelli di Gesaraccio. Io fin quando stavo lavorando lo compravo da Cesaraccio, andavo lì all'angolo di via Montello, di via Le Sicilia, là, al Corso Pascoli, c'è quello della frutta all'angolo, c'è lì il negozio di Cesaraccio, andavo lì a comprarlo, tutte le mattine compravo il pane lì. Però poi ha già cominciato a non trovare più e allora cosa va via? Noi posso stare dai nomi a Sassari a comprare il panini, no? Con i negozi che ci sono qua, assolutamente no, non va bene. E allora lo compravamo in questo negozietto che c'è lì, che poi tra l'altro naturalmente un coso, pesce vendolo, lo vedeva via la malattia una volta, non ho messo quanto si chiamava del nome, che è la sorella praticamente di quello che ha, quello che aveva una volta la pescheria giù in fondo al corso, all'angolo praticamente quasi di Piazza Sant'Antonio, in Chile, quella di la pescheria, no? E lui aveva il figlio di questa donna e c'aveva il corso. E il negozio di questo, dove compriamo queste piante, è appunto la sorella di quello lì, di questo persone chiamato pescivendolo, meglio una volta era buono o vigile notturno. E ho capito, ha già capito. Ehi, caspittina, e che io non c'ho più il motorino, se no già sarei andato lì da Cesaraccio a prenderlo. A chi c'era buon avvio urbani, era per du croccante, per du gusto, come ti piace a me. Sì, infatti è il più buono, per me è il migliore in assoluto. È il migliore in assoluto. Io a Sassa rimane buono, mi più avvio, a me l'ha fatto CB, quando mi da CB, tra me e via Rosello, e c'è la raccia che lo prendi, figurati. La bue naturalmente venne a caso, gli scritto come attessi, però no, non è mai a rivedere né di CB né, e tanto meno del Cesaraccio. E pa cosa va a fare Urbani Bono? Dipende da rimpassatori, mi dipende. Chi su che impassa l'impasto lì, due che pone il rurepi, tu devi stare attento che non passi di lievitazione, perché più ci sta e più lievita, capito? E si passa di lievitazione diventa tutto mazzoso, così, mamma mia, bucci. Infatti è così. Ma io vado a un cliente, no, quando lavoriamo, vado a un cliente che si chiama Gavino, che vendeva i prodotti per i panificatori, per i pasticceri, eccetera, eccetera. E mi dice, quando deve andare a comprare le paste o il pan, tu devi andare in questi posti. E perché mi stai dicendo quello, l'ho detto io? Perché sono quelli che comprano i materiali migliori. Ci sono invece altri che vogliono risparmiare e comprano altri materiali. Sicché se fanno il pane con un materiale più scadente, è logico che non sia buono, non può essere buono come ti deve essere. E questo me lo diceva sia per i pasticceri che per i panificatori, Natale. E allora chiedo Rusabia che ha prodotti idratavani, e se non usi prodotti buoni è logico che c'è scadente anche il pane. E così ne ho venuta di va. Io lo so come funziona. Poi mettono farinacce, mamma mia, cazzo, farina per dolci, fanno il pane con la farina dei dolci che costa la metà. Almeno aggiungili un po' di maritoba, ormai guisarsi più forza. Perché c'è sempre l'egoismo di guadagnare sempre di più, spendendo sempre di meno, ecco qual è il problema, spendendo di meno con i materiali e magari guadagnare di più anche, per guadagnare di più, è ovvio. Purtroppo è così, la gente alle volte non è onesta al 100%, ecco, quando lavora, purtroppo è così. Capite, io quando andavo a pegare un legno, se ne era di primissima scelta, è scelto da me anche, non così preso a casaccio, no, dalla catazza, no, le tavole le voglio vedere io, i materiali le voglio vedere io, non il diavolo, no, nella maniera più assoluta. Ci stavo anche in mezza giornata scegliendo i materiali, però prendiamo il materiale via, magari nella catata c'era lo che so io, 1000 metri cubi di legname, ma io te ne giravo, se io devi avere 4-5 metri cubi, te ne giravo 200 metri cubi, te ne giravo, e vedevo e prendevo le tavole che dicevo io, no, non quelle così a caso, come fa tanta gente. Quindi a caso la bue, quando dagli, si diventava ridotta come c'è l'anca dei lugani, la legna non interessava niente, no, non è così che funziona, no. Uno che vuole lavorare bene deve prendere innanzitutto il materiale buono. Perché se tu lo prendi a caso ti costringi anche a lavorare male, decimare il prodotto, no, non andava bene. Io lo so qui come si funziona. Tu a chi lo conosci bene la regna e pigliavi chissà chi dovevi pigliare. Allora qui è la rimedio rubenio, no, che tutti quanti dice no, dice non si può più scegliere, come non si può più scegliere, ma non c'era là. Io vengo qua con i soldi contanti, perché io sempre contanto, ho comprato contante materiale, non ho mai sbagliato a buffo, perché ha arrivato tanta gente e la buce si può inguaiare. Io sono andato sempre, ho comprato sempre tutto contante, qualsiasi materiale che mi serviva. Io gli ho detto, allora voi volete scegliere, allora fate una cosa, fate la categoria, prima, seconda e terza scelta. Io voglio sempre il materiale di prima. Lo aumentate, fate tre prezzi, perché se sono tre categorie di materiale, devono esserci anche tre prezzi. Allora cosa mi ha detto il signor Corda? Ma pigliato, sotto braccio, mi ha detto. Allora, Sarda Legname era su in Via Delante, su all'angolo di Goso, no? Tutta la fine di Via Delante. Mi ha preso sotto braccio e mi sta portando a rubare che fa i tipi farendo in viaggio di Astrulli, che volte si chiama, viaggio di Astrulli, no, voglio fare da dire pompieri, che via è, boh, non me la metto. Vabbè, mi sta portando a rubare e mi fa, signor Giù, allora sa cosa le dico, io a lei glielo permetto di scegliere legno, però se lo faccio per tutti, dice. E allora a me mi rimane la vendetta, mi rimane, perché si prendono tutti le tavole migliori. Ma sono fatto, io non voglio essere privilegiato a nessuno. E a me mi fa scegliere il legno, me lo fa pagare magari di più, non mi interessa. Perché io, quando faccio il lavoro, lo faccio con coscienza. E per fare un lavoro buono, con coscienza, ci vuole materiale soprattutto buono. Perché se no, per quanto lo posso lavorare bene, con cuore, con coscienza, non potrà essere mai un buon lavoro, perché è bello fin quando dura, e in poco tempo poi magari diventa storto, oppure si spacca, eccetera, eccetera, oppure cadono i nodi e tutte queste belle cose qua. E a questo a me non mi va bene, perché io ho bisogno di mangiare tutti i santissimi giorni, e se io non tratto male i clienti, mangio un giorno, il secondo giorno non mangio più. Cioè, adesso vedo lei, ha detto vabbè, dice, lei ha l'ordine di scegliere le tavole che vuole, infatti vedo l'uomo di fatica in chi viene, lo magazzinieri non lo buriava le ava, che io avevo l'ordine, no? Di girare le tavole, però le giravo e le mettevo a posto, noi che le pigliavo e giravo e le avevamo tutto sotto sopra, no? Giravo le tavole, sceglievo quella e poi le rimettevo a posto e le lasciavo sempre la catasta bene in ordine, bella in ordine. Vai Natali. Quello lì ci rimetteva, chi si ruvadiava a tutti, aveva ragione Edo, che lì rimaneva solo raga e non la rinvia. Sì, ma Edo deve essere più furbo. Noi facciamo le categorie, tu invece considerato che hai il personale, qua ci sono gli uomini, quando ti arriva il legname, tu lo scegli, fai la categoria, la prima, la seconda, la terza scelta, c'è quello che vuole spendere di meno, andi a scegliere la terza scelta, io voglio pagare e comprare il legno buono, e pago la prima scelta, e tu dobbiamo uscire, dobbiamo, forse non lo facciamo per questioni di spazio, questo non lo so, il fatto sta, o perché magari non vogliamo fare del puro lavaglio, però l'ho inchiodato e mi va, io a lei lo capisco, mi ha detto, io a lei lo capisco, sa, perché anch'io sono stato in mezzo ai falegnami e capisco benissimo che il materiale vuole ottimo, vuole buono, per cui comunque non si preoccupi, soprattutto io ero sempre in chivi da anni e anni e anni, comprendi, e poi andavo con i soldi contanti, no a Signano, a Catellino, no. Dunque io vengo qua, signor Corda, io vengo qua con i soldi contanti, allora ha capito che dei clienti come me ne ha pochi, e quello ha ragione, dice, perché quasi tutti qua comprano a pagare, a cambiare, a tratte, eccetera. No, io vengo sempre quello di là, sempre, tutte le volte, perché se io soldi non ne avessi avuto, non ci sarei venuto a comprare legname. Invece cosa faccio? Se il cliente viene, io do un lavoro, le chiedo la conto, e quella conto deve servire per comprare il materiale. E dunque vengo sempre con i soldi, così facevo io la tempo. E almeno evitavi anche di indebitarti, non lo vedi che se ti ci vuole poi da ruina e giù vita, comunque che cose di pigliare a debito. Appunto, bravissimo, invece dei clienti che andavano, magari la conto dal cliente si sbagliavano a tessi, però poi i soldi si ritenevano e andavano a comprare loro legno a debito. Ah, ti inanda, ma cosa stai dicendo? Il legno lo devi pagare con i soldi che ti dai in anticipo al cliente, con quelli, e quello è il sistema di lavoro. lavoro serio, perché lavora seriamente. È inutile che tu vai a dare di là, dallo cliente, l'anticipo, e da voi te lo vuoi dire tutti le mani. Ah, ti nando, non ti nando, invece vieni e pagalo. Poi quando consegni il lavoro hai la rimanenza tutta per te, non devi pensare a pagare nessun debito. Ed è giusto che sia così, debiti non ne devi pagare, a chi su chi ritiri rimane a te. E lo guadagno io praticamente. E infatti, era così, io ho sempre adottato quel sistema, e ho già lavorato per oltre 50 anni a conto mio, o Natali. A parte il fatto che a me Sada Legname mi conosceva già da prima, perché la ditta dove lavoravo, cioè fratti del caso, era una ditta seria come si deve. E mi mandava anche quando c'è Giulio vai e scendi 50 metri cubi di legno, ci stavo anche tre giorni scegliendo il materiale, e io comunque sono stato abituato con il sistema della ditta Fratelli di Caso di allora, no Gavini era in Ciafuglione, Pasticcione, anche se era una grossa ditta quella, anche più grossa forse di Caso come numero di operai, però c'era un abisso fra il lavoro che si faceva da Fratelli di Caso e quello che faceva Gavini, la Caridaia, che faceva bombe le gaggade che sono Gavini. Nel Fratelli di Caso sì che si lavorava con serietà veramente e con coscienza. E dunque magari era anche più caro come costo dei lavori, però il materiale era lì duvila e il lavoro era fatto come si deve veramente. Chi si fa fatti vedere, chi si vuole la roba buona la deve pagare, ecco perché era più caro Caso, perché pigliava materiale buono, faceva il lavoro con coscienza e te lo faceva pagare giustamente, e lui non ti ne fazia di buffonaturi. Infatti è così, tanto è vero, poi Gavini l'ha fatto, Gavini era da Bembo, a Caridaia, tu pensa che da buono banco di Sardegna l'ha fatto valli per 1,5 miliardi, perché va via 1,5 miliardi di debito con un banco di Sardegna. Sì, erano grosse industrie, c'erano tanti operai, ma anche Fratelli di Caso c'erano 70 operai, 13 ragazzi, 3 uomini di fatica, il meccanico per la manutenzione delle macchine, tutto avanti, i chibattoni virali. E dunque, però ha sempre lavorato da grande e in bellezza, non si è sporcato il nome come ha fatto Gavini, e Gavini, nonostante che andava a Brassetta con il presidente di provincia, con il sindaco Bieloni, allora in quel periodo, andava perché era amico di questi, però da voi ha chiuso in malo modo, perché il Banco di Sardegna adesso è stato Capannone, adesso è stato tutto, adesso è quest'altro. Per forza, capiglia e paga è padrono della buscia Caranzena, però se non paghi da buttini di tutte le giane di tutto. Chiaro Guido, ma per dire, no, io sono sempre stato, tu era un sistema, anche mio padre mi diceva sempre, tu compra sempre con i soldi, che quando hai pagato non deve niente a nessuno, è tutto quello che hai, fare gli amici, è tutta roba tua, perché quando si è andato a comprare con i soldi contanti nessuno viene a chiederti niente, e così era infatti, ma a parte che con me nascia come cosa nella mia natura stessa, andavo a comprare tutto, così facevo per la ferramenta, così facevo per i vetri, e così facevo per tutto, sempre con di là, sempre. Capito, Natali? Infatti mi hanno tutti apprezzato, mi volevano tutti bene, mi hanno sempre voluto tutti bene, tutti quelli che mi vendevano i materiali, a Lugrinia, andavo sempre loro di là, vedi Buridi, a Lugrinio. E anche con te qui erano sicuri, erano, non ha compreso, tu pigliavi e pagavi. Ed io sono cucino, ma te se c'è una cosa non me la posso permettere, che non ho i soldi contanti, non vanno a comprarne. Sono andato a pigliarmi il televisore, curitina contanti, la macchina quando io l'ho presa sono andato con i soldi contanti, sonanti. Se io non me lo posso permettere una cosa, no, non lo faccio il passo più lungo della gamba, proprio per questo motivo, perché non mi piacciono i debiti. Non credo, infatti è proprio così che devo fare, la macchina io l'ho sempre comprata contanti, anche quello l'ultima appena comprata a me 6-7 mesi fa. la macchina nuova, la Ford Escort, un SUV praticamente. Uno mi si è comprato da poco, comprata per mia figlia, mi si è buono pagare il contante, tutti, dalla mia domanda si è pagato il contante, tutte le macchine che ho avuto io, tutti pagati in contanti, tutti indistintamente. La casa, tutta quanta fatta così da contante, no, non c'è bisogno di ordinare dalla regione, ordinare dalla banca, no. Tutto man mano che lavoravo facevo, ecco, così ho sempre fatto, e la mia teoria è quella, ho fatto così, non faccio di là, non ne posso, se faccio di là ne posso fare, quando la voce che ho pagato so che non devo niente a nessuno. E infatti rimane mio capuzzano e tutto, e come ti ho fatto sempre io, la stessa cosa, e se io una cosa non ci arrivo con i soldi, no, mi ne sciocco ma non ne piglio. E lo credo, grazie a Dio ho sempre fatto così, e non solo per la casa, e per il magazzino, e per l'altro appartamento, tutto quanto così ho fatto sempre, tutto quanto vuol dire raccontarti, senza andare mai a domandare niente a nessuno. E devo dire che me ne sono trovato bene, e il bustoletto che mi sono fatto lo stesso non l'ho sprecato, l'ho saputo conservare, premesso che ho avuto anche una moglie che i soldi li sa mantenere, tutto questo sono tutte cose importantissime, quelle che servono in una famiglia. Se da voi uno si incrocia con una femmina che tu la vuoi, che dai impegni a quattro mani, e la cosa non è che andrà bene, invece non ti deve far mancare niente, però non deve nemmeno sprecare nella maniera più assoluta. Quello è molto importante, avere la moglie che sa mantenere i soldi, a che se no tu riguadagni e chi da si dipendi, non andare così. In America va via nella gestione allegra a tutti, no? Da poi che tu vieni a venire si quittaravano in casa che tu va via, perché erano troppo allegri spendendo e facendo, capito? Invece no, che ma cosa non succede, ma cosa di nano ti ne dazzi, mi no, che infatti è così, qua dai. Nasce trabagliato, mi nasce già che tu sei un bel, perché non è che facevo 8 ore io al giorno, minimo. Quando ero un po' più poco, minimo era i 10, 12 giorni, fino a lì quando non le facevo pure 15. La carità, la Giuseppe si è sacrificato molto, e tutto questo posso anche essere orgoglioso, perché l'ho fatto solo e esclusivamente con le mie forze, cioè con le mie braccia l'ho fatto, perché non ho sfruttato mai a nessuno, perché dipendenti non ne ho avuto, hanno fuori di qualche ragazzino così che mi faceva 15 lì, e da voi se ne andavano e non vi tornava più perché non mi aveva reso niente. Per dire, no, e tutto quello, non è di chi hai avuto della gente che hai sfruttato, no, io ho sempre lavorato all'azzurra, tu lo sai, per cui il sacrificio è stato solo ed esclusivamente mio, e della mia famiglia, che i soldi che portavo a casa mia moglie li ha saputi tenere bene, non se la lampadi, per così dire, tra virgolette, no? E infatti sei stato fortunato in quello, che hai avuto una moglie che sapeva amministrare i soldi e tutto, perché lo sacrificio che tu fai è stato premiato pure in suo modo, perché tu il sacrificio lo facevi per la famiglia, giustamente. Beh certo, se no che motivo avevo di sacrificare così, se lo facevo lo facevo per la famiglia. A caso, e oggigiorno devo dire che me ne trovo bene, me ne trovo, sì, vabbè, c'è la pensione, d'accordo, però la pensione è di buon bagada, sempre quello, c'è mia figlia che è laureata, sì, ma mia figlia l'ho fatta studiare io, però 20 anni, no, lì no, perché è la prima geometra, il padre geometra non le bastava, non l'ha voluto studiare all'università, e si è laureata, è dottoressa. Dunque, e oggi sta lavorando già da 20 anni, quasi, da 20 anni, forse anche oltre, per conto suo, e lavora alla grande, dunque non c'è problema, o Natali, è così, è la vita, è così, insomma bisogna vivere nella vita senza grilli per la testa, sapere che bisogna lavorare e basta, visto che non ho potuto, fare un lavoro da seduto, cioè in poltrona come tanti fanno, impiegati eccetera, no? Visto che non l'ho potuto fare io, però ho messo in condizione a mia figlia di fare questo tipo di lavoro. Cioè io lavoro per conto proprio, pago un bel denaro di tassi, segnando, non ci sono dubbi, a livello anche di 6-7 mila euro di tassi ogni anno, se che ti puoi immaginare, come li pagavo io prima, 6-7 mila euro di tassi, parlavo di denuncia e redditi, sto parlando di denuncia e redditi, senza tutto il resto poi, beh, da voi è tutto un rito, è camera di commercio, è consulente, è IVA, tu mi dai, ma l'IVA la pagava il cliente, no, l'IVA non te ne pagava il cliente, se tu gli pagavi di IVA al cliente, stai tranquillo che lui se ne andava, non te ne pagava del lavaggio, e allora tu non dovevi accollare tu anche quello era un sistema, insomma bisogna saperci fare anche, dai. E infatti, tutto macello in Italia, mamma mia, ogni tanto te ne viene un balzello quando stai lavorando e devi far fronte a pagare tutte queste cose. Ci sono, oggi a Punice a Contusio equivale a suicidarsi. Infatti, tu basta pensare che pagavi a puntarsi di barattoli, della dinta, le devi chicciare tutti tanti a fare piatti, come un piatto di trattemo in cucina, e poi passava la ditta, passava e se le portava via sistematicamente ogni un certo periodo, oppure andava e buttava la serratura e pagava due sacchetti di serratura, pagava 5 euro, vanno a passivi, ma andando mai, tutte queste cose si pagavano. Oggi non lo so come fanno, però suppongo che sia uguale, no? Non penso che ci sia differenza. Oltre alla tassa mondetta, normale, è la luce e tutti tanti figosi, e bisognava farlo, e l'hanno fatto, purtroppo, logicamente, cerco di godermi la pensione fin quando rimango in vita, e la sera pazienza. Infatti. Io ti lascio che devo fare cosa qua. Ci sentiamo alle prossime, grazie per la chiacchierata. Mi ha fatto veramente piacere, alle prossime. Ciao, ciao Natalia, alle prossime, grazie a te per la chiacchierata, ciao, ciao.